Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio e buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali. Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Non abbiamo cambiato il claim di essere e avere, questo è il titolo di un'interessante ricerca del Dipartimento Marketing dell'Università Bocconi, alla quale dedichiamo il primo dei nostri approfondimenti. Anche i grandi marchi sperimentano l'usato a fare da apripista il colosso svedese IKEA. Ne parleremo nello spazio dedicato alla grande distribuzione. Focus sui trend dedicato invece a olfatto e consumi, quando i consumatori vengono presi per il naso. Prima però, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. Spiccano al volo i prezzi delle colombe. Lo denuncia il Codacons, secondo cui i dolci tipici pasquali, uova di cioccolato comprese, hanno registrato rincari del 9% circa rispetto allo scorso anno. Intanto il rincaro dei prezzi degli alimentari rischia di determinare una stangata di oltre 400 euro all'anno per famiglia. È quanto rileva l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che parla di ricadute gravissime e insostenibili, specialmente per le famiglie a reddito fisso e per gli anziani. Si ispira a un grande maestro del design italiano, Achille.it, sito che propone la vendita online dei prodotti più significativi dei grandi designer. Attendiamo altre idee di oggetti da giovani designer italiani, è la promessa open source del sito. Pizzo, trine, merletti, ricami a traforo. La moda dell'estate si immerge nelle atmosfere vittoriane delle nostre nonne. E i grandi nomi della moda salutano il ritorno del pizzo come sinonimo di femminilità. Da Dolce Gabbana ad Alberta Ferretti, passando per Blue Marine e Ermanno Scervino. Si terrà a Firenze dal 20 al 22 maggio Terra Futura, mostra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tutela dell'ambiente, energie alternative, finanza etica, commercio equo, agricoltura biologica, turismo responsabile, consumo critico. La borsa della spesa. Non è divino. Che cosa? Tiffany! È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? E non è per i gioielli che a me non piacciono, tranne i brillanti, si intende. Oddio, è anche vero che i brillanti prima dei 40 fanno cafone. Beh, hai ragione. Ma nel frattempo dovresti pure avere qualcosa. Aspetterò. Colazione da Tiffany insegna: la classe non è acqua e non ha nulla a che fare con lo scontrino. Ciò che indossiamo rivela molto di noi e del nostro rapporto con le marche e con le tendenze, gli stili imposti dal sistema moda. Un rapporto che, dicono le ultime indagini, sta radicalmente cambiando rispetto a qualche tempo fa. In che modo sta cambiando e perché? Lo abbiamo chiesto a Stefania Borghini, docente di marketing all'Università Bocconi, autrice della ricerca Dimmi come ti vesti. È da qualche tempo che le donne in particolare hanno un rapporto con la moda, con le marche, soprattutto quelle più importanti, ad esempio quelle legate al lusso, si sta evolvendo. Abbiamo visto qualche segnale qualche anno fa, ma adesso ormai possiamo dire che è affermato. Le donne combinano stili completamente diversi e riescono a creare anche un proprio stile combinando cose che prima non ci saremmo mai immaginati di mettere insieme, quindi abiti low cost con accessori molto costosi, cose che vengono ripescate nell'armadio di anni, di tanto tempo fa, con oggetti invece comprati anche sulla bancarella, piuttosto che comprati su internet, barattati anche con le amiche o con persone che non conosciamo durante i momenti dello swap. Si stanno riprendendo un po' la libertà di ricreare il proprio stile. Purtroppo mi piacerebbe dire libertà totale invece non è, perché le donne italiane, soprattutto le donne diciamo le trentenni, le quarantenne, le cinquantenne che lavorano, si sentono invece comunque imbrigliate in standard, in stereotipi che vengono imposti dalla moda piuttosto che dal dress code che deve essere utilizzato al lavoro. Questo comporta un odio amore nei confronti della moda, perché quando la moda consente alle donne di esprimere quello che loro sentono, quello che loro vogliono essere, l'amano perché si sentono più libere, appunto. Dicono: ogni stagione comprare qualcosa di nuovo da abbinare con cose che magari non metto da anni mi dà l'opportunità di ricrearmi, di rigenerarmi. Usano anche questa parola, mi rigenero. In altri casi invece, quando la moda, e noi lo sappiamo, impone degli stili, la cosa sulla quale le donne hanno parlato molto sono ad esempio i jeans a vita bassa piuttosto che i pantaloni stretti o certi modelli di scarpe, quando però la moda tutta insieme impone degli stili che invece non sono diciamo adatti ad alcune donne, o per motivi fisici o per motivi legati magari all'età, allo stile di vita, le donne si sentono invece prigioniere e imbrigliate. Moda come espressione della memoria collettiva di una società, ma anche dell'identità personale. La moda è sempre stata utilizzata per comunicare l'identità, però prima era più un'identità, se vogliamo, collettiva, appunto, un segmento di mercato, una classe sociale, una certa tipologia di consumatore. Adesso invece diventa sempre più identità individuale, molto più che in passato. Oggi le donne utilizzano proprio la moda di tutti i giorni, il vestire quotidiano, per costruire e poi comunicare la propria identità. In passato invece la moda diventava importante soprattutto nei riti e nei rituali, quindi momenti importanti della vita di una persona. E c'è anche chi si è messo a studiare i segreti del cosiddetto power dressing, lo stile, la moda delle donne di potere. Everyday Icon, icona di tutti i giorni. Così è stata battezzata Michelle Obama dalla regina dello stile Kate Betts. Segni di riconoscimento, abito lungo e All Stars. Con un guardaroba che miscela il lusso trasgressivo di Alexander McQueen con la quotidianità delle sneakers, la First Lady sta rivoluzionando la percezione del potere negli Stati Uniti, dicono gli esperti. Il suo segreto? Veste cercando di rappresentare se stessa, non il suo ruolo. La politologia passa anche dall'acconciatura, sostiene Rob Young, autore di Power Dressing, catalogo ragionato dello stile delle donne di potere. Dall'eleganza di Jackie Kennedy alla cotonatura di Margaret Thatcher, dal divismo di Evita Perón alla sofisticazione di Carla Bruni Sarkozy, passando per la treccia di Yulia Tymoshenko e l'incasellabile Angela Merkel. Cambiamo argomento, nasce IKEA Second Hand, ce ne parla il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Le foto sono allineate le une alle altre, non sono bellissime e infatti per la maggior parte sono amatoriali. Si tratta dei mobili usati che i frequentatori del sito mikea.it possono vendere in modo virtuale attraverso il portale di IKEA. Una foto, la descrizione del prodotto, il prezzo, il tutto è molto chiaro, proprio come in ebay.it, dove già da tempo diversi clienti di IKEA cercavano di vendere mobili e accessori acquistati nella catena svedese. Il servizio offerto ha molti punti di forza. IKEA mette a disposizione il sito, ma non ritira in un magazzino i mobili usati, quindi non si occupa della logistica. Il brand ne risulta ovviamente rafforzato perché le transazioni, sia la ricerca sia l'offerta, transitano dal suo marchio brand. Questo sistema ha anche qualche controindicazione. Nel caso di una spesa importante, sarà meglio che il cliente si accerti prima della validità dei complementi che sta acquistando, perché una volta smontati, pagati e portati a casa, le sorprese possono essere molte. Nel regolamento della compravendita, IKEA è molto chiara: la responsabilità è di chi vende. La vendita dell'usato è stata da tempo sperimentata da Decathlon, che due volte l'anno allestisce dei tendoni e vende l'usato dei suoi clienti, a cui poi consegna dei buoni spesa spendibili ovviamente nei negozi Decathlon. Molto apprezzato è il servizio di noleggio sci chiamato Skinium, e avviene solo online attraverso ovviamente il sito di Decathlon. Questo dell'usato venduto online potrebbe essere una buona leva per aumentare il ciclo di vita dei prodotti e soprattutto dare un servizio serio e strutturato. Anche Media World tentò negli anni scorsi la vendita dell'usato di apparecchi fotografici di livello nei suoi Saturn, ma non durò molto perché nessuno comprava. Il motivo? Il senso della proprietà tipico per questi prodotti. ma in momenti accentuati di crisi forse converrebbe ritentare. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di olfatto e consumi. Il marketing olfattivo ormai è una tecnica consolidata, la più sfruttata fra le nuove frontiere del marketing, usata in settori che nulla hanno a che fare con gli acquisti in profumeria. Sell with smell era il motto dei pubblicitari americani, vendi con l'olfatto, ad indicare appunto, a dispetto della sopravvalutata vista, il potere commerciale del più evocativo fra i cinque sensi. Con il profumo giusto, dicono gli esperti, il conto finale lievita nelle boutique come nei ristoranti, ma anche nelle concessionarie auto, negli alberghi, persino nei casinò. Pensate, quelli di Las Vegas da tempo hanno messo a punto l'aroma del tavolo verde. Patrizia. Con il marketing dell'olfatto, il cosiddetto scent marketing, si può dire con una battuta che veniamo tutti presi per il naso. L'olfatto insieme all'udito è stato il senso più trascurato. Oggi sappiamo, siamo iperstimolati visivamente e per questo le immagini da un lato sono sempre meno potenti, mentre l'olfatto è di gran lunga il più potente dei cinque sensi in termini di capacità di generare attenzione, interesse e appunto influenzare gli acquisti. Un esempio clamoroso è il profumo del Talco Johnson's, riconosciuto ovunque nel mondo, dalla Nigeria al Pakistan all'Arabia Saudita, anche se nessuno riesce a ricordare il logo del marchio. Questo ce lo racconta Martin Lindstrom nel capitolo 8 del suo libro Neuromarketing. Ma l'olfatto appunto oggi non è più così sottovalutato né sottoutilizzato dal marketing, e il tema dello stimolo olfattivo da associare a un prodotto o a un ambiente è un tema molto delicato, perché alcuni sapori, in primis il cioccolato, quelli forti, quelli fortemente attraenti, creano di fatto un effetto boomerang a volte sul prodotto o sul luogo, perché non reggono le aspettative, risultando dissonanti, come si dice, rispetto allo stimolo stesso. A meno che il prodotto non sia, come nel caso di Le Whiff, esattamente la molecola aerea che inspiriamo e nient'altro. Di cosa si tratta? È il cioccolato smaterializzato da inalare, sviluppato da David Edwards e Thierry Marx, chef stellati Michelin. Il prodotto è un contenitore dalla forma di un sigaro, lo si mette in bocca, si inspira e una deliziosa sensazione di cioccolato, come dicono loro, investirà il nostro palato. Non c'è nessun limite all'uso, anzi l'abuso è consigliato, visto che l'apporto calorico è quasi zero e il piacere è esattamente come quello provocato dalla vera scopolamina. Ci sono 8 puff a inalatore per un costo di 1,80 euro. Oltre alla versione cioccolato fragola, cioccolato menta, Le Whiff ha appena lanciato anche la versione al caffè. E invece distribuite da Drogue le tazze e i piatti di Sprout Design, che sanno di caffè. Sono fatti al 100% di fondi di caffè pressati e riciclati e sono delle stoviglie da usare in combinazione con cibi solidi o liquidi, consigliati biscotti e cioccolata, compatibili con questo specifico sapore che assorbiranno attraverso il contatto. Le aziende che usano il scent marketing sono moltissime: catene di alberghi, negozi, per esempio il principale negozio di Samsung a New York profuma di melone, ma soprattutto negozi di alimentari. Pensiamo alla maggior parte dei supermercati che ha il banco del fornaio vicino all'ingresso per stimolare la fame e neutralizzare la nostra lista della spesa. I parchi dei divertimenti, naturalmente, ma anche i musei, quello della scienza di Londra, casinò, aeroporti. British Airways per esempio emette la fragranza Meadow Grass Prato, che richiama l'aria aperta, e fino anche i garage come quelli del gruppo inglese NCP, che vengono inondati di profumi, da quello di rosa a quello del pane a quello del pollo arrosto, e i più votati dagli utenti vengono confermati e riproposti. Non poteva non considerare questo senso, l'olfatto, l'arte, e parliamo di quella di strada e dell'austriaco Michel Heinrich, che realizza gli smell graffiti, la sua personale scrittura sulla tela della città arricchita con oli essenziali che durano dai 20 ai 60 minuti finita l'opera. Colui che dominava gli odori dominava il cuore degli uomini, si legge in un libro diventato un vero e proprio cult, Il profumo. Dal romanzo di Patrick Susskind del 1985 è stato tratto il film omonimo del 2006, tra gli interpreti Dustin Hoffman. Si chiamava Jean-Baptiste Grenouille, e se il suo nome oggi è caduto nell'oblio è unicamente perché la sua ambizione fu riservata a un territorio che non lascia alcuna traccia nella storia. Il fugace regno degli odori. Fabbricherò tutti i profumi che desiderate, ma voi dovete insegnarmi a catturare l'odore di ogni cosa che esiste. Ciascun profumo contiene 3 accordi. L'accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare il posto all'accordo del cuore, il tema dominante del profumo, che dura alcune ore. E infine l'accordo di base, la scia del profumo, che dura alcuni giorni. Un'antica leggenda narra che fu rinvenuta un'anfora dentro la tomba di un faraone. Dicono che quando venne aperta si sprigionò una fragranza che dopo tutti quegli anni era rimasta intatta. Un profumo di una tale soave bellezza, ma così potente, che anche per un solo fugace momento, qualunque persona lo annusasse, pensava di trovarsi in paradiso. 12 essenze furono identificate, ma la 13ª, quella fondamentale, non la individuarono mai. Tutti i grandi marchi ormai hanno il proprio logo olfattivo, odoroso, la fragranza da associare in modo indissolubile alla propria identità di brand. Patrizia, tra i casi simbolo si cita sempre Abercrombie, così. Ma il caso Abercrombie & Fitch compare già non a caso nei manuali di marketing, di sensory branding, di neuromarketing, eccetera, che appunto sulle prestazioni sensoriali dei prodotti, così come sulla memorabilità dei marchi, ci vengono in aiuto, correlando preferenze e comportamenti d'acquisto all'attività cerebrale dei consumatori. Attività cerebrale che è fortemente influenzata dai sensi e in particolare dall'olfatto. Abercrombie, lo ricordiamo, è una catena di abbigliamento con punti vendita in cui un particolare profumo viene diffuso oltre che spruzzato dal personale e come un invisibile adesivo rimane attaccato ai vestiti di chi esce dal punto vendita e diventa quindi un testimonial sensoriale di questo brand, marchiato temporaneamente da questa riconoscibilissima fragranza che per un po' ci segue come un'ombra. E fare sensory branding di prodotti o marchi non fa quasi più notizia, quanto invece farlo di un'intera nazione. È il progetto su cui ha investito per esempio il governo lituano, che ha fatto produrre dalla Maison Gallimard il profumo per ambiente Lietuvos Kvapas, una sorta di sintesi olfattiva istituzionalizzata. I molti casi di scent marketing includono anche esercizi creativi un po' fini a se stessi o abbastanza estremi, quali gomme delle auto profumate di lavanda, palle da tennis che sanno di erba appena tagliata, profumi da indossare al bacon o, come Blood Concept, puro odore metallico di sangue nelle versioni dei vari gruppi sanguigni A, B, 0, eccetera. Società come l'americana Scent Air si occupano appunto del design olfattivo degli ambienti, soprattutto legati al retailing, e di fragrance strategy, cioè le strategie olfattive, progetti sensoriali per influenzare il mood di clienti, consumatori, delle persone che respirano le diverse aree variamente profumate. E anche il mondo editoriale ha un caso peculiare da raccontare. È una pubblicazione per i nostri nasi e non per gli occhi. È il numero 23 del 2010 di Monoculture Magazine, rivista berlinese di interviste, così si autodefinisce. È un numero speciale dedicato all'artista scienziato norvegese Sissel Tolas, che invece di raccontarsi a parole o con immagini ha appunto micro incapsulato nella carta della rivista 12 fragranze definite odori difficili dall'autore, quindi non sono aromi o essenze o profumi, odori che i lettori hanno potuto annusare sfogliando e accarezzando le pagine. Nel mondo della ricerca scientifica e delle nanotecnologie, interessante la sperimentazione del centro ricerche di Cambridge di Nokia, che sta lavorando sul nano naso elettronico, un progetto per rilevare quali e quante sostanze nocive per la salute siano presenti nell'aria che respiriamo o per fiutare sostanze tossiche nei cibi. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Parigi? Non possono che arrivare dalla patria dei profumi le ultime novità su olfatto, consumi e dintorni. Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. E proprio al potere evocativo degli odori, come dicevi tu, si affida Scent of Departures, il profumo delle partenze, una linea di fragranze che si prefigge l'arduo obiettivo di catturare l'essenza di una città in una boccetta. Se siete di passaggio dagli aeroporti di Monaco, Vienna, Istanbul, Francoforte o Budapest, potete infatti acquistare la confezione di profumo corrispondente alla città, con tanto di codice a barre identificativo, che ne contiene il distillato dell'inimitabile atmosfera. L'idea è della coppia di creativi Ghislain Senequier, il primo, profumiere noto per aver lanciato il luxury brand Histoire de Parfum, e la seconda, una donna, interior designer, che traendo ispirazione dai loro innumerevoli viaggi, hanno pensato di condensare l'esperienza vissuta in un profumo per rievocarla ogni volta che lo si indossa. Una nota di Vienna, così, emanerà sentore di vaniglia, liquirizia, cioccolata e caffè, come se fossimo in una delle sue pasticcerie, insieme all'aroma di menta fresca e erba di una passeggiata lungo il Danubio. Uno spruzzo di Istanbul ci riporterà al bouquet di spezie del Gran Bazar mescolato a sandalo, cannella e muschio. I profumi saranno in vendita esclusivamente negli shop degli aeroporti. Dopo questi primi 5, entro il 2011, saranno disponibili su scala globale e attraverso un modulo compilabile online tutti potranno contribuire alle nuove creazioni con i propri suggerimenti. Grazie Alessia. Patrizia, a breve, la notizia di qualche tempo fa, potrebbero arrivare anche gli SMS profumati. In agguato non c'è il rischio saturazione? Anche in Europa, del resto, dagli Stati Uniti sta arrivando il cosiddetto movimento fragrance free, che al pari di sigarette e cellulari vuole mettere al bando proprio i profumi dai locali. Sì, da un lato c'è il rischio di saturazione da parte dei consumatori e c'è anche un rischio di uso improprio, diciamo, del scent marketing. Ti stimolo e lo faccio esplicitamente per produrre un effetto. Anche il marketing olfattivo appartiene un po' a quel marketing, diciamo, tra virgolette, manipolatorio e condizionante, che dovrebbe transitare un po' verso il nuovo paradigma del societing, cioè inteso come marketing più emancipativo e partecipativo e che considera il cliente consumatore come individuo, come soggetto sociale, ancor prima che terminale della filiera produttiva. Dunque uscire un po' dal paradigma pavloviano di causa-effetto, secondo il quale allo stimolo A corrisponde la reazione B, eccetera. Perché forse queste stimolazioni sensoriali, lo dicevamo anche in chiusura della puntata sui consumi al limite, con secondi fini così espliciti, non sono sempre o non sono del tutto legittime. @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto e di nuovo auguri di buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali.